Alex fece vedere solamente alla signorina Anita lo strano messaggio arrivato tra la sua posta negli ultimi giorni di dicembre. Ancor prima di essere aperta, per la sua dimensione, il colore e la grana della carta, la busta aveva di che incuriosire. Era anormalmente grande, rigorosamente quadrata, color beige salmone e granulosa come una minestra di tapioca in cui sia stato versato un passato di pomodoro. Ancor prima di osservare i francobolli e i timbri postali, Alex voltò la busta. Inciso in diagonale e in rilievo, in caratteri gotici di color porpora, lungo il risvolto a destra si poteva leggere Alpine Drive, number 17, BH Co., California, USA. Impressionato, Alex si servì del tagliere che non utilizzava. E il suo fischio di stupore, poi di ironia, fu talmente stridulo che fece uscire la signorina Anita dal suo piccolo ufficio salottino. Sulla prima pagina, bianca, liscia e spessa come una carta assorbente, di quella che poteva passare per una partecipazione o un qualche catalogo, si fronteggiavano quattro miniature. Erano incorniciate in oro antico, stile Très riche heure della Duchesse de Berry, e disposte come ritratti su una cimasa. Si riconoscevano facilmente Giovanna d'Arco a cavallo e con l'armatura, Lafayette con la sciabola sguainata e il cappello piumato, Louis Pasteur studioso davanti al suo microscopio e Napoleone I di spalle che contemplava Mosca in fiamme. Alex aveva già capito e già cominciava a ridersela da solo, ma fu dopo aver aperto il catalogo che dette libero corso alla sua fragorosa ilarità. Sulla pagina di destra, proprio al centro, un Merry Christmas and a Very Happy New Year 1937. Esplodeva in rilievo, non in diagonale, a caratteri gotici color porpora molto grossi. Sotto, sempre in rilievo, color porpora, ma a caratteri inglesi così sottili da far pensare a una scrittura con la penna d'oca, si poteva leggere From Jack and Vicky Rogin. Sulla pagina di sinistra Nicola aveva tracciato qualche riga con la sua calligrafia da brava scolaretta della scuola elementare di Rue Saint-Ferdinand. Mio caro Alex, tutto passa, tutto ha fine, tutto tedia, perfino le grandi delusioni e i piccoli tradimenti. Solo il dolore rimane, ma la vita riprende i suoi diritti. Prenda nota del nostro indirizzo, non si sa mai. Love, V. PS. A titolo di cronaca, Yannick è il rappresentante esclusivo di un gruppo di cacciatori di pellicce canadesi per tutto lo stato della California e io sono ormai consigliera storica per film d'epoca che si svolgono in Europa e più particolarmente in Francia. Hollywood è appassionante e Beverly Hills è divino come Neuilly-sur-Seine. Gli uccelli mosca svolazzano sul sicomoro del mio giardino. PPS, qui non ho trovato il gesso viola, ma mi arrangio con quello rosso. Quel fenomeno di Vicky, disse Alex, tendendo il documento alla signorina Anita, che si divertì anche lei, ma comunque meno di lui. Di comune accordo, decisero di non comunicare a nessuno quegli auguri color porpora, gotici e anglosassoni che con ogni evidenza erano destinati solo ad Alex. Per di più, dopo il ritorno dell'uovo in ditta, c'erano state abbastanza storie tra Ginette e la signorina Agnès a proposito del 92 mancante. Improvvisamente si era ritrovata la signorina Agnès di una volta. A denti stretti aveva finalmente acconsentito a ritagliare un altro 92, di cui non le piacevano né il velluto, né le trine, né i bottoni. Non diversamente si sarebbe comportato Michelangelo, casomai l'avessero pregato di riprodurre un motivo scomparso dal soffitto della Sistina, senza però avere il buon gusto di mettere a sua disposizione il materiale di prima scelta grazie al quale aveva concepito l'originale. Per qualche giorno tutti avevano molto sofferto in laboratorio e non era il momento di andare a rivangare quelle vecchie storie, mentre la giovanissima Anna Karenina pendeva tranquillamente tra le scorte accanto al 93 Vronsky, soprattutto nel periodo di Natale. E poi, aveva soggiunto la signorina Anita, non era neanche indispensabile che Stepan Roginski scoprisse che, scoprendo l'America, il fratello aveva deciso di amputare di una sillaba il cognome di una famiglia che era anche la sua. E la signorina Anita rimise il catalogo nella sua busta, ritagliò accuratamente le effigi di Lincoln e di Roosevelt per il suo piccolo vicino dello Square Montsouris e archiviò il gran quadrato di tapioca al pomodoro nella pratica maschere. Alex ebbe la fugace tentazione di rubarglielo e di portarlo in Rue de la Mar quanto bastava per far ridere Olga e Sonia, ma dopo aver ben riflettuto ci rinunciò. Olga era così tranquilla da quando sapeva che i nemici erano partiti sul serio. Non ne aveva parlato che una volta, e quella volta le era sfuggito. un giorno che Alex l'aveva complimentata per il suo aspetto riposato. Perché respiro meglio adesso. Se bussano alla porta non aspetto nessuno. Forse sarà il diavolo, ma non potranno mai, mai essere loro. Questo lo so. E la sera mi addormento meglio. E anche Stepan. Alex aveva sorriso e si era ben guardato dal chiederle che cosa la rendesse così sicura di sé per quanto riguardava la serenità del marito. Gli capitava di osservarlo da lontano, Stepan, durante la giornata e di stupirsi a volte del suo sguardo pensoso. Anche la signorina Anita gli aveva raccontato che quando avevano preso il metrò insieme una sera, Stepan le aveva chiesto se sapesse dove era andato a finire suo fratello. Ma probabilmente Stepan lasciava le sue preoccupazioni fuori dalla porta e dopo tutto aveva ben ragione. Anche Zazà dorme bene, ma va a letto troppo tardi in questo periodo, aveva detto Olga riallacciandosi all'argomento sonno. Certo, ma per imparare quello che sta imparando a fare ne vale la pena, aveva risposto Alex. E che roba sono quel Vaché e quel Jacques che lei segue dappertutto? Vaché è uno scenografo che si chiama Wakevich e Jacques è un aiuto regista che si chiama Becker. Allora è un francese? Becker sì, Vaché è russo e lei li segue perché li ha aiutati a trovare l'occorrente per fare dei bei costumi in un bel film che si intitola La Marseillaise, disse Alex. Ah, allora va bene se è gente a modo. Sono giovani, belli e assolutamente a modo, aveva confermato Alex, e Zazà è molto seria. Allora va bene, aveva ripetuto Olga, fiera di Zazà. Sorridendo quietamente, era andata a rifargli un caffè e Alex l'aveva seguita in cucina. Sulla mensola la fila dei libri era diminuita, le opere erano più spesse ma meno varie. Anche loro, i ragazzi, fanno sul serio, aveva mormorato rimettendo a posto il grosso cuvier. Diventeranno degli eruditi, aveva detto Sonia, fiera di Maurice, facendo funzionare la macchina per cucire. Prima di lasciarle quel giorno aveva lanciato un'occhiata sul caminetto. Maddy aveva ripreso il suo posto, come in passato, mascherava di nuovo qualche membro della famiglia nella cornice dei nostri. Alex si guardò bene dal chiedere da quando e perché avevano preso quella decisione. Dopotutto, dal momento che pensavano che mai, mai più la nemica sarebbe venuta a bussare alla loro porta, erano perfettamente libere di raccogliere come una loro figlia la figlia diletta della loro nemica in rotta. Era leale. Per la strada aveva incontrato Josette e Miriam che tornavano da scuola. Ormai si vedevano poco da Boneda quando Zazà lavorava. Le aveva trovate cambiate, ma terribilmente scolarette rispetto a Zazà. Zazà aveva detto la verità poco prima, era seria, e per quanto ne sapeva, gli uomini giovani e belli che vedeva per tutto il giorno e spesso fino a tarda sera erano a modo, e tutti erano davvero meritevoli, lui ne sapeva qualcosa. Era accaduto, o meglio, non era accaduto niente, 2 mesi o 2 mesi e mezzo prima in casa sua, in rue Campagne Premier, non si ricordava la data esatta, ma non era ancora inverno dato che Zazà portava i calzini. Lavorava da solo davanti al tavolo illuminato da un'unica lampada. Fuori stava ancora diluviando, dopo un grosso temporale, quando verso le 5 avevano suonato. Era Zazà, bagnata fradicia dalla testa ai piedi, che voleva fargli vedere una partita di gioiellini antichi sui quali voleva subito il suo parere prima di comprarli definitivamente. I 6 orecchini d'argento e la catenella di argentone che si tirò fuori dalla tasca dell'impermeabile erano di così scarso interesse che avrebbe dovuto domandarle perché aveva fatto tutta quella strada sotto la pioggia per sottoporle a domicilio al suo parere. Ma non glielo aveva domandato. Le aveva detto: «Stai piovendo sul mio parquet, vai in bagno a asciugarti i capelli con un asciugamano e infilati questo. Il colletto della tua camicetta è tutto bagnato». Le aveva lanciato il suo pullover nero a collo alto buttato sulla spalliera di una seggiola e senza più guardarla si era rimesso a disegnare. Aveva rialzato la testa solo sentendo la porta del bagno che si apriva. Il pullover troppo lungo faceva a Zazà un vestito nero troppo corto, con le maniche troppo lunghe e che si fermava a mezza coscia. Il fondo della gonna plissettata bianca faceva come una sottoveste che pende. Si era tolta le scarpe e aveva arrotolato i calzini alle caviglie. Rimaneva nel vano della porta e lo guardava. La luce del bagno la illuminava alle spalle. Lei si asciugava i capelli con un asciugamano bianco. Non diceva niente e lo guardava mentre la guardava. Non si era mosso dal tavolo da disegno. La guardava. Lei si frizionava la testa, con gesti lenti. Alle mani sembrava avesse dei mezzi guanti neri nel bianco dell'asciugamano e i suoi seni si muovevano sotto il pullover a ciascuno dei suoi movimenti. «Cuidado, cuidado, attenzione!» si era detto Alex, come Rodriguez gli diceva sempre in caso di pericolo. E aveva abbandonato lo sguardo azzurro che si era aggrappato al suo attraverso i grappoli biondi dei riccioli ancora umidi, ma già trasparenti. «Infilati le scarpe e lasciami lavorare ora. Per i ninnoli della vecchia signora va bene, glieli puoi comprare», aveva borbottato chinandosi sul disegno. «Tieni il pullover, lo renderai a tua madre». Sulla soglia, mentre Zazà stava già scendendo, l'aveva richiamata. «Di un po'. Trovo che sei ancora troppo piccola e già troppo grande per far visita di pomeriggio a dei signori che vivono soli. Hai capito?» E le aveva sorriso gentilmente. Zazà l'aveva guardato bene in faccia, senza sorridere. Aveva fatto lentamente girare l'indice destro sulla tempia destra. Aveva alzato le spalle prima di precipitarsi giù per le scale. Qualche giorno dopo, Olga gli aveva restituito il suo pullover rammendato al gomito e lavato di fresco con il legno di Panama, cosa che aveva vagamente deplorato ma senza darlo a vedere. Zazà non era mai più tornata da sola in Rue Campagne Premier. Poco prima, lassù, Olga aveva chiesto se quel Waké e quel Jacques che Zazà seguiva sempre dappertutto erano a modo. Non aveva menzionato nessun Laurent, quindi se Zazà non parlava di un Laurent a casa, voleva dire che non l'aveva ancora guardato, quindi che non l'aveva ancora visto, perché il giorno in cui l'avesse visto, quello l'avrebbe guardato. Oppure sarebbe proprio stata l'unica a non farlo, si diceva Alex, sorridendo. Magari una mattina o l'altra si sarebbe trovato uno dei tre famosi pullover Shetland di Laurent Verdon, quello verde bottiglia screziato turchese, quello verde muschio screziato tabacco o quello verde tenero screziato blu, a mollo nel catino per lavare, che sapeva trasformarsi tanto bene in conca da bucato per piccoli ricordi. Alex era arrivato in Rue des Pyrénées. A 100 metri dal metrò c'era un cartello che dominava un assembramento. Il cartello diceva «Per il Natale dei repubblicani spagnoli». Al centro dell'assembramento, per terra, ai piedi di un tizio che stava parlando, un paiolo da marmellata di rame conteneva un po' di denaro. Alex depose un biglietto da 10 franchi e, senza ascoltare il discorso, continuò il suo cammino verso il metrò. Quella sera, alla Coupole, Rodriguez avrebbe detto ancora che non ne aveva la minima voglia, ma che in ogni modo bisognava ben che ci andasse in Spagna a fare quella coglionata di guerra civile. E il colmo era che ne era ben capace Rodriguez. Rodriguez, che non ammazzava le zanzare, salvava le bestie del buon Dio, amava solo la pittura, le donne, un po' grosse, non troppo giovani e non molto belle, gli amici, il caffè, il cinema muto, salvo quando parlava Prévert, e che teneva la forchetta come si tiene un pennello. Che cosa mai avrebbe potuto fare con un fucile tra le mani in un paese che aveva lasciato da 10 anni per poter dipingere tranquillo? «Farò come Goya, dipingerò gli orrori della guerra», gli aveva risposto Rodriguez l'altra sera mentre era un po' sbronzo. «Se è per questo non c'è proprio bisogno di essere sul posto», gli aveva detto Alex, ignorando a che punto la sua frase si sarebbe rivelata profetica. 6 mesi dopo, senza dover cambiare una sola parola alla sua profezia di dicembre, si concederà il lusso di ripeterla a Rodriguez sempre in partenza e sempre a Parigi. «Lo vedi?» gli dirà al padiglione della Spagna repubblicana dell'Esposizione Universale. «Lo vedi? Lui l'ha fatto, standosene in Rue des Grands Augustins, Parigi, sesto arrondissement. Credi che andando alla fonte si possa fare di meglio?» Rodriguez farà di no con la testa, entrambi si allontaneranno a malincuore dalla contemplazione di Guernica e butteranno dei soldi nella fontana di Mercurio, l'altra ricchezza offerta ai visitatori del piccolo padiglione imbiancato a calce. Anche Maurice, Robert e Samy andarono a fare un giro all'Expo, alla stessa epoca tra lo scritto e l'orale del loro secondo baccalaureat, di filosofia per Maurice e Robert, di matematica elementare per Samy. Era stato Félix a fargli l'itinerario. Dopo il padiglione dell'URSS, da visitare in primo luogo, non dimenticassero soprattutto d'andare a buttare il loro obolo nella fontana di Mercurio al centro del padiglione della Spagna repubblicana. Per il quadro di cui tutti parlavano, li lasciava a giudici. Lui pensava che Josette, a 4 anni, sapesse fare altrettanto senza difficoltà, ma dopo tutto, se quel Picasso richiamava gente, era la cosa principale. Più preoccupati dal loro baccalaureat che dall'universo e dalle sue vetrine, gironzolavano a casaccio, leccando gelati, passando dal Messico alla Svizzera, dall'Ungheria all'Egitto, senza tener conto del programma stabilito da Felix. Non furono severi come lui per Picasso. Trovarono che era un po' duro da mandar giù, ma dopo tutto loro non si intendevano affatto di pittura e molto cerimoniosamente deposero le loro monete sulla distesa luminosa di quell'argento vivo che li aveva tanto incuriositi nella loro infanzia. Dall'esterno, la spoglia modestia del piccolo padiglione bianco era un affronto permanente ai due giganti che a 2 passi da lì si facevano lealmente concorrenza, dal momento che avevano scelto di sfidarsi faccia a faccia nel cielo di Parigi. I due stendardi rabbrividivano allo stesso ritmo sotto la brezza primaverile, ma nelle loro pieghe la svastica nera cerchiata di bianco era più vistosa sul rosso della bandiera tedesca di quanto non lo fossero la falce e il martello dorati nella bandiera dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. In compenso, l'edificio dei comunisti dominava in altezza quello dei nazisti. L'uccellaccio si prenderà sul muso la falce della signorina e il martello del giovanotto. Se non vola via in tempo, eh? Aveva acutamente fatto notare Robert, alzando la testa verso i vertici. Lassù, l'aquila prussiana, colta da un artista scultore nella sua posizione favorita di guardia, di attesa e di vigilanza, si trovava effettivamente nella linea di tiro della robusta contadinotte e del muscoloso operaio che un altro artista scultore aveva colto in pieno movimento mentre andavano incontro alla vita, brandendo alti con entrambe le mani gli umili strumenti della loro fatica quotidiana. C'era una tale fila d'attesa davanti ai due grattacieli più in vista dell'Expo 37, e cioè la Germania nazista e l'URSS sovietica, quel sabato pomeriggio che rinunciarono a visitarli. L'anno precedente avevano scoperto il mare, un po' di contrabbando. Quest'anno sarebbe stata la montagna, in piena legittimità, tutti insieme, inclusi Miriam, Ginot e sotto la guida di Robert e di Josette, che l'avrebbero riscoperta con loro e per loro. La tenda, già comprata d'occasione, proveniva da una partita usata di materiale volante delle PT. Era di tela khaki, talmente ampia e alta che faceva pensare al quartier generale dei generali Lee e Grant durante la guerra di secessione americana. Se l'idea di andare a dormire sotto della tela ai piedi delle nevi eterne aveva fatto ridere o preoccupato le famiglie Gutmann, Roginski, Nussbaum e Goldberg, essa era piaciuta moltissimo a Felix e a Ginette Clément. Finalmente si sarebbe saputo in Rue de la Mar a cosa assomigliava il da noi dei Savoiardi. Sotto gli alberi delle Buttes, Maurice, Robert e Samy completarono le loro liste, quelle dei libri che comunque volevano portarsi dietro. Per l'altra roba toccava alle ragazze e a Ginot occuparsene. A metà luglio, baccellieri completi, cioè diplomati, finalmente, presero la testa della spedizione campeggio. Nei loro zaini Hemingway, Dos Passos, Faulkner e Caldwell, tradotti da Coindreau, avrebbero assicurato nuovi nutrimenti spirituali che spettavano loro. La fanteria seguiva con le casseruole, i thermos, il fornellino, a meta e l'ultimo numero di Cinemonde. Il resto fu spedito in seguito come bagaglio, con i sacchi a pelo. Presero il treno di notte alla Gare de Lyon e scesero a Grenoble, da dove affrontarono la montagna, prima in corriera, poi a piedi. La prima a tornare a Parigi per riprendere il lavoro subito dopo il 15 agosto fu Zazà. Oltre che con un bellissimo aspetto, tornava con una notizia stupefacente. Partita all'avventura come una piccola vagabonda, tornava proprietaria terriera, o più esattamente coproprietaria, con i suoi compagni di un appezzamento su cui si innalzavano i ruderi di quello che era stato 2 secoli prima il pio rifugio di monache italiane. Per Olga e Sonia e per la nonna di Miriam, assunta allora per sopraffilare, tante erano allora le ordinazioni, Zazà aveva riassunto il suo favoloso romanzo. Piantata in un bosco di abeti in cima a una collina, una sera di temporale, la tenda delle Poste e telegrafo aveva rotto i suoi vecchi ormeggi, obbligando i suoi occupanti a scendere in un vallone per ripararsi sotto un vero tetto. Lo avevano trovato, e non soltanto il tetto, ma anche gli spessi muri che lo sostenevano, in un villaggio semi-abbandonato di proprietà di un certo signor Dupuis, sindaco del comune, padrone di una segheria, impresario muratore, possessore di 70 ettari. A quel punto del racconto, Zaza aveva tirato fuori dalla borsa una piccola fotografia. In primo piano si riconoscevano Josette, Zaza e Miriam sedute per terra. Dietro di loro, sorridenti e seri al tempo stesso, stavano in piedi Maurice, Robert, Samy e Ginot, con grandi pale in mano, volgendo le spalle a un immenso caminetto di pietra sormontato da un Cristo scolpito nella stessa pietra. Sulla sinistra della foto, un mucchio di gesso simile a un mucchietto di neve nascondeva l'inizio di una scala che sembrava portasse a un piano nobile. È una foto che ci ha fatto il sindaco il giorno in cui ci ha regalato il convento a condizione che lo riparassimo, spiegò sobriamente Zazà. Regalato? Come sarebbe a dire regalato? Regalato per tutta la vita. E quella dei vostri figli? Zazà aveva alzato le spalle dicendo che per il momento era prematuro. Consultato, Felix si era lanciato in un'analisi obiettiva di tutta la vicenda, da cui aveva tratto le seguenti conclusioni. Primo, quando si possiedono 70 ettari di una terra che appartiene a tutti, il minimo che si possa fare è darne qualche metro quadrato a degli individui che non possiedono niente. Notava tuttavia con un certo compiacimento che a compiere il gesto era un sindaco savoiardo. Secondo, il rifacimento o il rinnovamento di un luogo santo rientravano nelle prospettive di una opportuna rivalorizzazione dei beni ereditati dal passato. Quanto a quella porcheria di tenda, il suo stato di decomposizione dimostrava chiaramente come fosse stata trascurata per anni la sicurezza dei lavoratori delle poste, prima che ci si decidesse a dotarli di nuova attrezzatura. Dall'Alverniat il signor Nussbaum ottenne un grande successo annunciando che i suoi due figli, Jacob e Samuel, si erano ritirati in un convento. Il signor Loventhal ripeté la cosa alla signora Loventhal, che se ne stupì moderatamente. Allevati senza nessuna religione, i ragazzi di Rue de la Mar se ne erano trovati una per conto loro. Era un altro genere di kibbutz quello, il kibbutz dei convertiti. Già lasciar partire maschi e femmine insieme all'aria aperta. Ma ora che le cose accadevano all'ombra complice di una chiesa cattolica non ci mancava proprio più niente. La comunità conventuale tornò alla fine di settembre dichiarando fin dall'arrivo che sarebbero risaliti lassù per Natale, per tutti i Natali, le Pasque, le Trinità, le Pentecosti e per tutte le estati che la vita avrebbe loro concesso. Negli zaini i tre eruditi riportavano le pagine intonse del loro Hemingway, Dos Passos, Caldwell e Faulkner e le loro mani erano piene di calli. A casa Bonnet, Maurice e Robert dovettero aprirsi un varco tra i bauli di vimini che gli ricordarono quelli che avevano comprato per quattro cadaveri tagliati per il lungo nell'estate precedente. «È roba già vecchia», si dissero. Le etichette incollate sulle ceste indicavano «Coulis», Pirate du Rail, cavallerizze, gens du voyage, madre, nonna e cameriera, partite, campagne. Ne conclusero che per la Copée le cose andavano a gonfie vele nel cinema. «Voglia scusarci, ma noi ci dobbiamo lavare i denti, signor Gisors», disse Robert, baciando la manica vuota di una sontuosa tunica da mandarino di seta spessa blu scuro, tutta ricamata d'argento. «Te lo immagini se ne facessero un film della nostra condizione», disse Maurice. «Preferirei di no. Nessuno si può permettere di dare a quella gente facce diverse da quelle che le ho dato io nella mia testa». «E io nella mia», riprese Maurice. Per le ceste non si sbagliavano. Le cose andavano a gonfie vele per la Copé, perché andavano a gonfie vele per il cinema francese. «È l'età dell'oro che comincia», diceva Alex. «Tu hai fatto bene a non partire e lei ha fatto bene ad arrivare». La prima frase si rivolgeva a Rodriguez, la seconda a una donna, seduta tra Rodriguez e Alex al tavolino di un caffè un po' austero, all'angolo del Boulevard Saint-Germain e della provincialissima Rue Saint-Benoît. «Proprio bene», ripete Alex, guardando gravemente la donna. Questa doveva avere circa 30 anni, occhi grigi molto allungati, con ciglia leggermente truccate con rimmel blu. Sorrideva. Le sue labbra larghe erano ben disegnate, senza un velo di rossetto. Era pallida, aveva un collo fragile e capelli molto neri. Li portava a bandeau ondulati, senza scriminatura nel mezzo, e come se ne avesse raccolto la pesante massa con una sola mano, erano annodati in un lento chignon un po' sopra la nuca. Si chiamava Angelina Crespi, aveva una madre americana, un padre ungherese, era vagamente principessa, parlava il francese senza accento e arrivava dall'Austria, dove fino a quel momento aveva disegnato e dipinto per l'Opera di Vienna, per la quale diceva non avrebbe dipinto né disegnato mai più. Nel pomeriggio, benché fosse sovraccarico di lavoro, Alex aveva portato Angelina fino al piccolo padiglione bianco della Spagna repubblicana per rivedere con lei il quadro di Picasso. L'Expo non aveva ancora chiuso i battenti. Il mercurio continuava a sgorgare nella fontana, la carità continuava a piovervi. La guerra di Spagna seguitava. Senza Rodriguez e Alex ne era molto felice. Talmente felice che non aveva neanche sentito Rodriguez quando questi, il giorno prima, presentandolo ad Angelina Crespi, aveva fatto seguire nome e cognome da un cuidado, cuidado che si era perso nel frastuono della Coupole e le grandi risate di Laurent Verdon. Sesta parte. La cornice dei nostri. Maurice raccattò nel suo cucchiaino la scura pasta zuccherina che rimaneva in fondo alla tazza da caffè, la gustò come una caramella e solo allora disse a Robert: «Te lo giuro, per poco non ti ho detto io lo conosco». Non c'erano più clienti nel ristorantino della Rue Bonaparte. Erano quasi le 3 del pomeriggio. Avevano mangiato tutti e due a una tavola da 6. Gli altri 4 erano dei clienti abituali che davano del tu alla cameriera, come del resto tutti gli altri clienti del ristorante. Avevano già parlato ad alta voce durante il pasto e di cose a cui Maurice e Robert erano estranei, di forme e di formati, di colori e di tinte, di materie e di materiali. Afferravano i bicchieri con le mani macchiate e a volte se ne servivano per definire un punto in uno spazio di cui erano i soli a conoscere i limiti ideali. Maurice e Robert erano in fondo al tavolo, l'uno di fronte all'altro. Non avevano nessuna voglia di ascoltare, ma non potevano non sentire, il che aveva reso impossibile ogni vera conversazione tra loro due. Si sorridevano, aspettando che passasse, e avevano anche riso agli scherzi sonori che gli altri volevano condividessero, e poi il locale si era svuotato di colpo come il cortile della ricreazione. Erano spassosi. E poi si sono trovati un loro pianeta, aveva detto Robert a Maurice dopo il fuggi-fuggi. Quando si erano ritrovati tutti e due soli davanti alle loro crème caramel. «Ah, sono proprio fortunati», aveva sospirato Maurice, scostando la tendina a quadretti bianchi e rossi per guardarli attraversare la Rue Bonaparte ed entrare nel cortile delle belle arti. «Si doveva diventare pittori o scultori», soggiunse lasciando ricadere la tenda. «Ah, anche su Marte le cattive notizie della Terra finiscono sempre per arrivare. Non ci metteranno molto ad accorgersene, poveretti», disse Robert. Era il loro modo di riprendere la conversazione dove l'avevano lasciata, prima di entrare in quel ristorante che non conoscevano e che avevano scelto appunto per potervi stare tranquilli. Era novembre. Per essere più precisi, era il 10 novembre 1938 e il signor Ernst von Rath era appena morto. Il signor Ernst von Rath era il terzo consigliere dell'ambasciata di Germania a Parigi ed era morto nella notte tra il 9 e il 10 novembre perché nella mattinata del 7 un giovane gli aveva sparato 2 colpi di pistola. Quel giovane si chiamava Herschel Greenspan, era di nazionalità polacca, di confessione israelitica, aveva 17 anni ed era di quell'incommensurabile fatto di cronaca che Maurice e Robert si accingevano a riparlare ordinando il loro caffè nel momento in cui la cameriera stava già mettendo le seggiole capovolte sugli altri tavoli disertati. «Ma di un po'», fece bruscamente Robert. «Non c'era già stata una storia del genere quando eravamo piccoli? Un ebreo che aveva fatto fuori una specie di generale russo? Eravamo ancora dei marmocchi». Maurice guardava Robert e non diceva niente. «Non dirmi che non te lo ricordi. Hai perfino creduto di vedere l'assassino sul treno. È stato il giorno in cui abbiamo scoperto... È stato il giorno in cui abbiamo scoperto l'occhio di vetro del dottor Pierre», confermò pacatamente Maurice. «Allora, perché me la vuoi dare a bere?» «Non te la do a bere, è solo che non pensavo che te ne saresti ricordato, ecco tutto». «E come si chiamava?» «Pietriora», rispose Maurice. «L'assassino? No, l'assassinato! Il nome dell'altro non lo so, non l'ho mai saputo». E Maurice raccontò di Puepue a Robert. Puepue risaliva infatti ai tempi della signora Lutz. E quando ebbe finito, raccattò lo zucchero in fondo alla tazzina da caffè e disse: «La mattina in Rue des Pyrénées, quando ho letto il suo nome, sono stato sul punto di dirti: io lo conosco!» «E perché non me l'hai detto?» «Boh, troppo complicato, probabilmente.» «In che anno credi che fosse? Prima o dopo Lindbergh?» «No, era per forza prima, perché non si poteva più andare sul terreno. Avevano ricominciato a costruire. Andavamo nel vicolo cieco per giocare a Lindbergh.» «Allora era nel 26», disse Robert. «Il tempo era bellissimo e noi eravamo a Parigi da poco.» «Siete arrivati durante le vacanze di Pasqua.» «Allora era nell'aprile o nel maggio del 26.» «È stupido, non lo sapremo mai», disse Robert. «È stupido e scocciante.» «Oh, è talmente stupido e scocciante che non si può rimanere così», disse Maurice. «Dai, paghiamo e andiamo, e ti giuro che lo troveremo.» Non andarono alla Nazionale, né agli archivi, né alla Gazette des Tribunaux. Andarono a due passi. Maurice si era ricordato del vecchio Moreau d'Argy, il pazzo della Rue Séguier. Ma anche se Moreau d'Argy fosse stato il pazzo di Batignolles, ci sarebbero andati. Avevano tutto il tempo, tutta la giornata, come ai tempi della loro infanzia. Era giovedì e la vigilia dell'11 novembre, festa nazionale. Robert era arrivato la mattina da Le Havre, dove faceva il sorvegliante al liceo dall'inizio della scuola. Aveva ritrovato Maurice alla tabaccheria del crocevia d'Anton. Maurice veniva di fronte dalla libreria universitaria Villeneuve, in Rue de Seine, dove lavorava e abitava dall'agosto. Maurice studiava filosofia. Robert, storia e geografia. Dopo un insostituibile ultimo anno scolastico comune, una prima superiore a Louis-le-Grand, durante la quale avevano finalmente conosciuto quel quartiere latino, non solo grazie ai ritornelli dei goliardi del loro primo baccalaureat, alla fine di 4 settimane di vacanze scolastiche all'aria aperta si erano separati per la prima volta in vita loro. Avevano smesso di essere dei liceali, ma si ritrovavano quel 10 novembre, dopo qualche settimana di separazione, grazie alle vacanze scolastiche, che permettevano un gran ponte di 3 giorni agli insegnanti, ai loro allievi e ai loro librai. «Non aver paura», disse Maurice a Robert, spingendolo dentro un portone della Rue Séguier. «È svitato, ma ha tutto, è il re del delitto di sangue.»